in primo piano. Le 7:20 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Trascorreremo insieme la prossima ora, i prossimi 40 minuti in realtà, per leggere insieme le pagine dei quotidiani di oggi. Pagine che hanno aperture varie, ma i temi sono sostanzialmente gli stessi. Chi pone in primo piano l'uno, chi sceglie un altro. Ovviamente c'è il tema delle tasse, dell'IMU, dei rincari, delle bollette, di cui abbiamo parlato molto anche in GR24. Dati sul censimento Istat, gli italiani sono 59 milioni e mezzo, ci sono tante famiglie in più, ma sono piccole famiglie, ci sono anche molti poveri purtroppo e molte abitazioni fatiscenti, sempre più numerose in Italia. Si parla ovviamente degli ultimi sviluppi anche del caso della Lega, di molti sprechi che vengono segnalati di qua e di là sui quotidiani, e c'è ovviamente ovunque in primo piano il delitto di Via Poma, è un delitto senza colpevoli. Dopo 22 anni, assolto in appello l'ex fidanzato della vittima, Raniero Busco. E allora cominciamo da qui, dalla prima pagina della Stampa. Diciamo, iniziamo e chiudiamo questo tema qui sulla prima pagina della Stampa con il commento di Massimo Gramellini. Grazie alla superperizia che ha smentito la perizia, il fidanzato della vittima di Via Poma è stato assolto con formula piena ad appena 22 anni dall'omicidio. E così Via Poma ritorna nell'elenco infinito delle cose che in Italia non finiscono mai: le carriere politiche, i problemi sociali, i processi storici e giudiziari. Dopo il punto arriva sempre la virgola, per potersi accapigliare ancora, da Piazza Fontana a Piazza della Loggia, e poi Garlasco, una bomber, il mostro di Firenze. Mai una vicenda che si concluda in modo netto e condiviso. Figuriamoci, non abbiamo ancora chiuso i conti col 68, che ovunque è stato archiviato il 1 gennaio del 69, e nemmeno con il 25 aprile 1945. 70 anni dopo siamo ancora qui a litigare sull'ovvio, e cioè che gli eroi saranno pure tutti giovani e belli, ma una cosa era stare coi nazisti e un'altra con gli americani. Immagino la faccia di un giovane che abbia avuto la sventura di incappare in queste righe. Non ne potrà più di nomi e date che si rincorrono dai libri di scuola ai titoli dei giornali, con migliaia di stempiati che ne discutono animosamente a tempo indeterminato. È l'unico settore in cui non esistono contratti a termine, mentre il futuro pone questioni più urgenti. Mi dispiace, signor futuro, prenda il numerino, si metta in coda. Qui dobbiamo ancora risolvere il giallo di Via Poma e quello di Perugia. Previste sorprese per il 2052, quando Amanda Knox tornerà in Italia con i nipotini, e una rivelazione sconvolgente da sottoporre alla nuova mega super perizia. E un commento azzeccato, non solo per appunto la soluzione, anzi la mancata soluzione del delitto di Via Poma, ma anche per tutti quelli che abbiamo sentito negli ultimi anni. L'altro grande tema è ovviamente quello della crescita, rigore, investimenti. Ieri c'è stato il vertice tra il premier Mario Monti e il presidente della Commissione Europea Barroso. Nuovo slancio, dicono, le misure per la competitività. E allora andiamo sul Sole 24 Ore, dove leggiamo già dalla prima pagina: si rafforza l'asse tra Roma e Bruxelles sulla strategia per la crescita in Europa. Nel vertice di ieri tra il presidente della Commissione Europea Barroso e il premier italiano Monti si è posto l'accento su rigore e investimenti mirati da sostenere con i project bond all'esame il 7 maggio. Angela Merkel dice un'agenda per la crescita al vertice europeo di giugno. Ne scrive nelle pagine interne Beda Romano, che conoscono senz'altro anche i nostri ascoltatori, perché è nostro collaboratore assiduo. La signora Merkel, scrive Romano, la signora Merkel, sempre cauta, non ha dato alcun dettaglio. Più concreto è stato l'esito dell'incontro che il premier italiano Mario Monti e il presidente della Commissione Barroso hanno avuto ieri mattina a Bruxelles per una prima colazione. Nel comunicato congiunto i due uomini politici hanno ribadito che il contesto economico richiede uno sforzo incessante per migliorare la competitività, ma non attraverso i livelli più elevati di debito. Il risanamento dei conti pubblici, secondo Barroso e Monti, deve prevedere in parallelo investimenti mirati per migliorare la competitività e al tempo stesso aumentare la domanda nel breve termine. La presa di posizione giunge dopo che il premier italiano giovedì aveva sostenuto la necessità di sostenere la domanda sia per facilitare il risanamento dei conti pubblici sia per smorzare la crisi sociale, in particolare in una Spagna con un tasso di disoccupazione del 24,4%. Monti quindi ha proposto giovedì un piano di investimenti Come minimo lo sguardo corre ai project bonds. L'obiettivo è di avere a disposizione almeno 3 miliardi e mezzo di euro da utilizzare in progetti infrastrutturali. Le obbligazioni proposte dalle autorità comunitarie saranno oggetto di un primo negoziato tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione il 7 maggio. Un voto dei deputati in plenaria potrebbe giungere in luglio, seguito dall'accordo dei governi. E questo è solo un passaggio dell'analisi del pezzo di Beda Romano sulle pagine, come dicevamo, del Sole 24 Ore, ma sempre sulle strategie anticrisi restiamo sul Sole 24 Ore per così indicarvi i quattro punti evidenziati da Roberto Poli. Siamo pagina 13. Il rigore e la crescita in quattro mosse, le priorità: spending review, riduzione del debito, lotta all'evasione, velocizzare i pagamenti. Questi quattro temi evidenziati da Roberto Poli. Riduzione e revisione generalizzata della spesa pubblica, precisa però Poli, la cosiddetta spending review nella sua accezione internazionale, e quindi non nazionale sottinteso, è un processo articolato che non mira soltanto a tagli, ma ad una riduzione della spesa complessiva, dell'amministrazione centrale periferica, nell'ambito di una linea guida di eliminazione di sprechi stratificati e di assegnazione di priorità. Il metodo è fondamentale. Occorre una squadra dedicata full time, formata da tecnici interni alle amministrazioni e da tecnici esterni, sotto la guida di un board di grande esperienza ed indipendente. Non è sufficiente lasciare ai responsabili di singoli comparti la responsabilità del processo, che deve avere tra i suoi obiettivi anche lo snellimento della burocrazia, una delle cause della scarsa efficienza dell'intera spesa pubblica. Si potrebbe anche immaginare un obiettivo tra il 5 e l'8% della spesa pubblica al netto di interessi. Gli altri punti, ricordo, erano riduzione del debito pubblico, lotta all'evasione fiscale, contrasto dei pagamenti ritardati, ed è un atto dovuto verso le imprese, sottolinea Poli, soprattutto le più piccole. Occorre un sistema di sanzioni pro futuro a carico delle amministrazioni pubbliche. Scusate, ma il primo punto, ve lo ricordo prima di cedere la linea alla regia, c'era anche una riduzione della spesa complessiva nell'ambito di una linea guida di eliminazione di sprechi stratificati, di assegnazione di priorità nelle amministrazioni centrali e periferiche. Di queste amministrazioni periferiche torneremo a parlare tra pochissimo sulle pagine del Corriere della Sera, con uno dei consueti dettagliatissimi articoli a firma Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Adesso, appunto, linea alla regia e ci ritroviamo tra poco. In primo piano. Le 7:36 minuti, ancora una buona giornata da Laura Bettini. Proseguiamo la lettura delle pagine dei quotidiani di oggi. Abbiamo già letto molto sulla crescita e le misure per la crescita sul Sole 24 Ore. Adesso andiamo all'Unità, che presenta oggi una intervista a Jean-Paul Fitoussi, economista francese, famosissimo. Nell'Unione Europea il debito è più basso che negli Stati Uniti, dice Fitoussi, la finanza è potere perché l'Europa gliela dà. Questo solo qualche estratto, ma ora andiamo a leggere un po' più nel dettaglio l'intervista di Bianca Di Giovanni. L'Europa cambia agenda e punta sulla crescita, così almeno pare, stando alle ultime dichiarazioni di leader del vecchio continente. Persino la cancelliera Merkel abbandona il leitmotiv del rigore per parlare di creazione di ricchezza. Cosa sta accadendo? Che significa questa virata? I leader hanno cambiato idea? La cosa sorprende anche me, confessa ironicamente Jean-Paul Fitoussi, che da anni, forse decenni, punta l'indice contro il fondamentalismo rigorista del vecchio continente. Professore, non potevano pensarci prima alla crescita, ci arrivano solo ora? Veramente io dico da sempre che non si risolve il problema del debito abbassando il reddito con programmi di austerità. L'obiettivo è ridurre il debito in misura più forte di quanto non si riduca il PIL. Ma tutto questo ammazza il popolo e non è una risposta alla crisi. Non so davvero perché si sia fatta una scelta come il fiscal compact, il contrario di quello che serve all'Europa. Domanda. Oggi ci si pone un'unica alternativa: o più tasse o meno spese, cioè tagli. È così? Tutte e due le ipotesi, risponde Fitoussi, sono di austerità fiscale, una strada che non ha chance in un momento di recessione. Oggi si dice che serve l'austerità per ritrovare la crescita, ma anche uno studente del primo anno di università sa che per creare crescita serve una sola cosa: gli investimenti. Investire vuol dire credere nel futuro, e non farlo significa il contrario, distruggere il futuro. Con quali soldi? Ecco, servono soldi, risponde Fitoussi, ma qualcuno ha deciso che l'Europa non ne ha. Di più, hanno fatto il fiscal compact per dire che in Europa i soldi non ci sono. Ma questo non è vero, perché il debito europeo è più basso di quello americano e di quello della Gran Bretagna. La cosa buffa è che prima della crisi dicevano di non avere soldi, poi li hanno trovati all'istante per la crisi finanziaria, ma per i disoccupati non ci sono più e si continua a dire che servono o più tasse o meno spese. Più avanti chiede Bianca Di Giovanni, dove bisognerebbe investire per ripartire? Guardi, l'Europa, risponde Fitoussi, ha fatto progetti meravigliosi, ma non li ha mai messi in pratica, perché c'era sempre la precondizione che non si spendesse nemmeno un euro. Parlo della strategia di Lisbona o dell'Europa 2020 sulle energie rinnovabili. Questi piani vanno realizzati, così come le infrastrutture europee, ma sa che non esiste una linea diretta tra Roma e Berlino? Eppure sono due capitali europee. E così qualche passaggio della intervista a Jean-Paul Fitoussi, ricordiamo, sulla Unità. Dicevamo prima degli sprechi, dei tagli da effettuare non solo nell'amministrazione centrale ma anche nelle periferie. Ebbene, Corriere della Sera, andiamo subito a leggere province, sprechi e doppi incarichi, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Ci sono italiani che vivono su Marte, la prova è in una delibera della provincia di Reggio Calabria che il 23 dicembre 2011, il giorno dopo il varo della manovra Lacrime e Sangue per salvare l'Italia dal baratro, stanziava 120.000 euro per comprare un pianoforte a coda per dare concerti a Palazzo. Scrivono Rizzo e Stella, cosa se ne fa di un pianoforte, direte voi, una provincia che come le altre sta per essere soppressa? Ecco il nodo, l'idea di chiudere a molti non passa neanche per la testa. Il bello è che la provincia di Reggio è perfino meno sgangherata, si fa per dire, delle sorelle calabresi. Lo dice l'ultima classifica dei buchi di bilancio pubblicata da Sole 24 Ore, che vede i reggini con un debito pro capite provinciale di 236,8 euro, cioè meno della metà di quello stratosferico dei crotonesi, 493,7, dei vibonesi, 564, dei catanzaresi, 564,9 e dei cosentini, che svettano nella hit parade dove sono calabresi le prime quattro province dalle mani bucate, con 591,1 euro di buco a testa. Questo quello che hanno appunto come debito i cosentini a testa. Con dei conti così disastrati, vi chiederete, nei mesi in cui imprenditori asfissiati dai debiti e operai disoccupati si impiccano, come può venire in mente a un amministratore pubblico di comprare un pianoforte a coda? La delibera merita di essere letta per il linguaggio surreale. L'acquisto infatti viene motivato dalla necessità di avviare nel corso del 2012 una stagione concertistica che contribuisca ad avvicinare i cittadini all'istituzione. Parole testuali. E poi prosegue il racconto di come poi alla fine questo pianoforte non sia stato acquistato, almeno per ora. Ma prosegue appunto questo racconto, è solo rinviato finché si abbasserà il polverone. Pare davvero di sentirle le note dell'ultimo valzer mentre il Titanic delle province si avvia verso l'iceberg nell'incredulità generale. Possibile che alla fine si faccia sul serio e si vada allo scioglimento? Un po' di navigazione ancora la vorrà ben concedere. Ed ecco che i presidenti delle province di Como, Vicenza, La Spezia, Genova, Ancona e Belluno, che sarebbero decaduti il 6 maggio per fine mandato, resteranno ancora un poco al loro posto. Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ha deciso di nominarli commissari di se stessi, in attesa che entro l'anno, come stabilito dal decreto Salva Italia, si faccia la legge con la quale gli enti dovrebbero scomparire. Il solo presidente della provincia di Genova, Alessandro Repetto, ha detto no, no, non ci sto e si è dimesso. Quindi questa è la situazione attuale, commissariati di se stessi. Restano lì i presidenti delle province, in attesa che si decida che cosa fare. Cambiamo un po', solo un po', argomento. Presidenti di province, Lombardia, indagato Podestà, firme false per Formigoni, questo scrive titola Repubblica. Davide Carlucci scrive, un'altra nube giudiziaria si addensa intorno a Roberto Formigoni e lo stralcio di un'inchiesta che vedeva già coinvolti 15 tra esponenti e funzionari del PDL Lombardo, tra i quali 4 consiglieri provinciali, per le 926 firme false raccolte per il governatore alle elezioni regionali del 2010. ora nel registro degli indagati è finito Guido Potestà, il presidente della provincia di Milano, con l'accusa di essere niente meno che il promotore dell'attività di raccolta di autografi, poi disconosciuti dagli pseudo sottoscrittori. A dar notizia della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, nel suo sito personale è stato, in modo asettico e senza commenti, lo stesso numero 2 del PDL in Lombardia, proprio nel giorno in cui si fa frenetica l'attività dei PM su un altro versante che chiama in causa il numero 1 e in particolare il suo entourage, per l'indagine sulla distrazione dei 70 milioni di euro della Fondazione Maugeri. Ieri sono stati interrogati ancora una volta il professor Umberto Maugeri, il presidente della Fondazione, il direttore amministrativo Costantino Passerino e così via. Ma insomma, come dicevamo, di provincia in provincia ci sono anche di questi guai nella provincia di Milano. Prima di cedere la linea alle informazioni sul traffico, andiamo sulle pagine di Libero. Grande titolone a tutta pagina oggi: debito pubblico record, 2.000 miliardi, altro flop di Monti. Il titolone è proprio la scritta 2.000 miliardi in cifre. Altro flop di Monti, oggi l'indebitamento tocca la mostruosa cifra di 2.000 miliardi di euro, sale ancora la bolletta, luce più cara dal 1 maggio, di questo parliamo poi subito dopo la viabilità. Leggiamo rapidamente Fosca Vinker. Oggi euro più euro meno, il debito pubblico italiano dovrebbe sfondare quota 2.000 miliardi. Secondo gli amanti delle statistiche, il fatto clamoroso potrebbe capitare alle 16.03 esatte, tenendo conto del ritmo con cui è cresciuto il debito pubblico negli ultimi 12 mesi. Secondo altri esperti del settore, l'aggancio a quota 2.000 miliardi potrebbe avvenire qualche tempo dopo, ma è sicuro che avvenga. Una certezza che peraltro è rafforzata dai fatti. Fino a qui il governo guidato da Mario Monti non ha varato nemmeno un emendamento in grado di ridurre il debito pubblico, di cui bellamente si disinteressa. Non ha privatizzato nemmeno un ascensore ministeriale, non ha affrontato del tutto il principale problema che rende facilissimo a speculazione e mercati mettere l'Italia con le spalle al muro. Monti è stato chiamato proprio per quello, ma di tutto ha fatto, in gran parte sbagliando le cure necessarie al malato, salvo onorare la sua missione tecnica. Anzi, come rivelato ieri da Libero, il Premier ha scelto di fare lievitare di 2,2 punti di PIL nel 2012 il debito pubblico, emettendo nuovi titoli per ricavare 35,1 miliardi di euro che si era impegnato a versare ai fondi europei per salvare la Grecia. Grazie a questa scelta il rapporto debito-PIL italiano arriverà a fine anno al 123,4% contro il 120,1% del 2011, indebolendo ancora di più, e non ce n'era bisogno, l'Italia anche di fronte alle rigide regole dei parametri finanziari europei. Così su Libero, adesso il traffico e continuiamo. In primo piano. E noi torniamo subito invece, andiamo sul Fatto Quotidiano perché qualche taglio viene effettivamente fatto, magari poi dopo si discute se è un taglio efficace, utile, ben fatto e così via. 46 milioni di tagli per la RAI al TG3, 4 volte più che al TG1, così scrive Chiara Paolin, come dicevo, il Fatto Quotidiano. Nulla cambia per ora in RAI tranne il budget. Il direttore generale Lorenza Lei ha distribuito le cattive notizie. Tagli per tutti, 46 milioni di euro che devono saltare fuori dalle reti e dai telegiornali, risparmiando sui costi di produzione. Ma i sacrifici non sono uguali a tutte le latitudini, specie confrontando le tre testate dei telegiornali. Il TG1, che ha un budget annuale di 10,3 milioni di euro, dovrà tagliare 200.000 euro. Per il TG2, che costa 8,2 milioni di euro all'anno, è prevista una diminuzione di 400.000 euro. Il TG3, costo annuale 6,7 milioni di euro, subisce la mazzata peggiore, 800.000 euro. È la testata più sprecona, evidentemente. Al contrario, risponde la direttrice Bianca Berlinguer, siamo sempre stati apprezzati per la precisione con cui abbiamo rispettato il contenimento dei costi, perché vale la pena ricordare che già da 3 anni ci tagliano il budget, 1 milione di euro solo l'anno scorso, adesso altri 800.000. E quindi che succede a questo punto? La Berlinguer non sembra rassegnata. Se bisogna tirare la cinghia, noi faremo la nostra parte come sempre, ma serve uno sforzo equilibrato, dice prima di andare in onda. E la stangata, come ben sappiamo appunto anche dai nostri radiogiornali, non finisce mai, come titola il Secolo XIX. Luce più cara del 4,3% con IMU e benzina, 2.200 euro di aumenti nel 2012, questa è l'apertura del quotidiano genovese. Arriva il secondo colpo della stangata sulla bolletta elettrica dopo lo scatto di aprile del 5,8%, ecco dal 1 maggio un nuovo aumento del 4,3%, totale oltre il 10%. È un aumento di spesa di 48 euro all'anno per famiglia. Non sarebbe una catastrofe se non andasse a sommarsi a tutta la serie di altri aumenti vecchi e nuovi, dall'IVA alla benzina, all'IMU, che secondo le associazioni dei consumatori costeranno 2.200 euro l'anno. Si tratta di aumenti insostenibili, affermano i consumatori, che determineranno pesantissime ricadute sullo stile di vita delle famiglie. E a proposito di stili di vita, escono i primi dati del censimento che al 2011 ha fotografato l'Italia. Popolazione salita a 5,5 milioni, ma solo grazie al flusso di stranieri, passati in 10 anni da 1,3 a 3,8 milioni. Triplica, sempre in 10 anni, il numero di famiglie che vive in baracche o roulotte. Erano 23.000, sono 71.000. Insomma, sull'IMU la Lega e la prima pagina della Padania oggi rilancia la disobbedienza civile. IMU, tassa rapina, la Lega attacca a testa bassa, questa è l'apertura. Maroni, il 1 maggio a Zanica lanciamo la giornata dell'obiezione fiscale. Bossi dice Monti è stato nominato dall'alto con un errore clamoroso, ma non è un altro Mussolini, si può e lo si deve combattere. E poi sulla prima pagina della Padania in un certo senso si prende anche spunto dai dati Istat. C'è la foto di un accampamento, di una baracca con ombrellone, sedie in strada e vestiti appesi a un albero. Il titolo è Monti ci vuoi così, triplicati i baraccati e gli stranieri. Il tema è ovviamente molto presente su Avvenire, la guerra dell'IMU, questo è il titolo di apertura. Nelle pagine interne però c'è molto commento anche specificamente a questo allarme roulotte e baracche. Due le analisi, Giancarlo Blangiardo, è l'intervista al demografo Blangiardo fatta da Viviana D'Aloisio. Il vero allarme non sono le roulotte ma il milione di stranieri in fuga. Ci sono almeno tre fenomeni inaspettati che i primi dati sul censimento hanno messo in luce, che rischiano di essere interpretati erroneamente o peggio ancora ignorati, scrive la D'Aloisio. Protagonisti gli stranieri che tanto hanno cambiato il volto demografico del nostro paese nell'ultimo decennio e che tanto allo stesso modo, spiega Giancarlo Blangiardo, ordinario di demografia all'Università di Milano Bicocca, risentono dei mutamenti sociali ed economici che avvengono attorno a loro. A che influenze si riferisce, professore? Soprattutto a quelle legate alla crisi con il crollo dell'offerta di lavoro e delle retribuzioni rispetto ai dati di fine settembre 2011, secondo i quali i residenti, cioè le persone registrate all'anagrafe, erano 60 milioni e 800 mila e si è scesi a 59 milioni e mezzo. In sostanza sono state tagliate via dall'anagrafe 1 milione e 300 mila persone, di cui 1 milione almeno sono stranieri, che dai 4 milioni e 800 mila di fine settembre ora risultano essere 3 milioni. Ma se erano registrati all'anagrafe, effettivamente si trovavano in Italia fino a qualche tempo fa. Dove sono finiti? Se ne sono andati, ecco tutto. Presumibilmente sono tornati nei loro paesi, oppure ne hanno scelto un altro in cui vivere senza preoccuparsi di comunicare all'anagrafe la loro partenza. Questo può essere letto senz'altro come un segnale della crisi che ha colpito l'Italia, a differenza di un altro dato cui bisogna prestare più attenzione, quello relativo all'aumento esponenziale di famiglie che dichiarano di abitare in baracche, roulotte, tende o abitazioni precarie. Contrariamente a quello, si potrebbe pensare questo non mi sembra essere l'esito della crisi o della povertà, quanto piuttosto dell'ingresso nel 2007 di paesi come la Romania e la Bulgaria nell'Unione Europea e la presenza forte su questi territori, di riflesso nei paesi scelti come mete migratorie, di popolazioni nomadi. Solo qualche dato. Nel 2001 in Italia avevamo 95.000 romeni, oggi sono 970.000, mentre da 7.000 bulgari oggi siamo passati a 51.000. È verosimile pensare che sull'aumento delle baracche influisca, per esempio, la forte presenza di Rom nel nostro paese. L'altra analisi è affidata a Walter Nanni, responsabile dell'ufficio studi Caritas. Per strada anche molti italiani, dice, è tempo di incentivare gli affitti e la costruzione di case popolari. Baracca Italia, così titola il manifesto oggi, 4 milioni di case sfitte, mentre rispetto a 10 anni fa ci sono 120.000 persone in più che vivono in baracche e roulotte, quindi anche il manifesto dedica l'apertura a questo tema. Ci restano solo 2 minuti per alcune segnalazioni. Molto si discute sulle pagine dei quotidiani dell'incontro tra Berlusconi e il presidente della Repubblica Napolitano. Trovate appunto ampie analisi su tutti i quotidiani. C'è quella del Foglio in particolare, che avremmo avuto intenzione di leggere, di cui leggiamo solo le conclusioni. Quindi è nel contesto di molte difficoltà e molto fermento all'interno del PDL, che viene ricapitolato nell'articolo di Salvatore Merlo, che Berlusconi ieri ha fatto visita al Quirinale. Il Cavaliere non intende mollare il governo, malgrado tema che l'azione combinata di tasse e recessione possa risultare fatale per Monti. A Napolitano Berlusconi non ha nascosto tutte le sue perplessità sulla capacità di tenuta e di azione del governo, ma ha pure detto chiaro che l'appoggio suo e del PDL non verranno mai meno. Semmai, teme il Cavaliere, potrebbe essere Monti a un certo punto a dichiararsi sconfitto. Questa è la conclusione. E sul pagine del Corriere della Sera trovate anche le motivazioni di Strauss-Kahn, ricorderete, un tempo a capo dell'FMI, Fondo Monetario Internazionale, che spiega appunto: ora lo so, contro di me c'è stato un complotto, come dicevamo, lo trovate sul Corriere della Sera. Adesso è il momento per noi di cedere la linea a GR24. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.